Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Noi siamo per andare avanti, loro questa mattina hanno formalmente dichiarato che la legislatura finisce a scadenza costituzionale, perché non l'assegna nessuno la scadenza se non la Costituzione, e dunque per noi il caso è chiuso. La nostra proposta è di non parlare più del tema delle elezioni anticipate. Diciamo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che chi ne è uscito vittorioso da questo fallimento dell'intesa dei quattro leader a proposito di legge elettorale è naturalmente, abbiamo sentito pochi istanti fa, Angelino Alfano, leader di Alternativa Popolare, nonché ministro degli esteri, alleato di governo del Partito Democratico, il quale insomma, certamente non era contento di questo accordo, uno perché aveva accusato Renzi di averlo tradito con gli avversari nel cercare un'intesa sulla legge elettorale, due perché questa legge elettorale prevedeva una soglia di sbarramento del 5% e Alfano pensava insomma di non farcela. In più bisogna dire che erano proprio negli ultimi giorni i ferri corti, Renzi e Alfano si sono scambiati un po' di insulti, un po' di accuse. Di questo parleremo naturalmente, come non parlare di politica, di legge elettorale. Tra l'altro domenica si vota per le amministrative in alcune località, in alcune città, e poi naturalmente per la politica anche la Gran Bretagna in primissimo piano dopo le elezioni di ieri che abbiamo seguito fino all'ultimo, e poi i risultati che per la prima ministra che ha voluto indire queste elezioni anticipate, Theresa May, insomma il risultato è stato deludente, ha perso la maggioranza assoluta il suo partito, quello dei conservatori, però faranno comunque il governo con un'alleanza un po' fragile, un po' forzata. Poi incidente a Max Biaggi, anche se per fortuna sembra che in 30 giorni dovrebbe cavarsela, ne parleremo, e ci sarà inevitabilmente, essendo venerdì, il meteo per chi insomma si chiederà che tempo farà in questo fine settimana. Allora, prima di approfondire i vari argomenti, come sempre, riassunto della giornata, e poi vi ricordo che c'è la pagina Facebook di Effetto Notte per voi, per aderire senza indugio o per scrivere i vostri messaggi e commenti, così come anche al numero 349-238-6666. Vediamo che giornata è stata. Il dopo elezioni in Gran Bretagna, la prima ministra May chiede scusa per il risultato e si allea con gli unionisti neoirlandesi per governare. Il Regno Unito dice ha bisogno di certezza, sicurezza e di procedere con la Brexit. La presunta trattativa Stato-mafia, il boss Graviano intercettato in cella dice Berlusconi mi ha chiesto questa cortesia e poi al 41 bis ho messo incinta mia moglie. La replica dell'avvocato Ghedini che dice mai alcun contatto diretto o indiretto con il signor Graviano. Legge elettorale, Renzi commenta non sono ottimista su una nuova intesa ma sono aperto, Alfano esulta, abbiamo vinto, scambio di accuse tra PD e Movimento 5 Stelle e Pisapia chiede a Renzi primarie per il centro-sinistra. Povertà, primo sì del CDM, Consiglio dei Ministri al decreto sul reddito di inclusione. Il ministro Poletti annuncia stanziati 2 miliardi l'anno per 660.000 famiglie. Rai, Mario Orfeo è il nuovo direttore generale. Motociclismo, incidente in pista per Max Biaggi, fratture multiple, guarirà in 30 giorni. Partiamo quindi dal giorno dopo il voto in Gran Bretagna. La prima ministra conservatrice Theresa May ha ricevuto dalla regina Elisabetta l'autorizzazione a formare un nuovo governo. Dopo lo smacco elettorale di non aver portato i Tories alla maggioranza assoluta nella Camera dei Comuni, cosa fallimento, diciamo flop che ha riconosciuto, May è pronta comunque a formare il nuovo esecutivo con il sostegno degli unionisti neoirlandesi del DUP e annuncia che gli obiettivi saranno attuare la Brexit e mantenere il paese sicuro. La Gran Bretagna adesso ha bisogno di certezza, ha proseguito, adesso mettiamoci a lavorare. Let's work, ha detto la May. Intanto il presidente della Commissione europea, Juncker, si augura che il risultato delle elezioni non causino ulteriori ritardi nella Brexit e soprattutto di questo punto poi parleremo dopo ritornando sulla Gran Bretagna. Intanto sterlina giù, cauti i mercati mentre la borsa di Londra ha chiuso in rialzo dell'1,04%. E ora in Italia con la presunta trattativa Stato-mafia a scuotere sono le accuse del boss Graviano a Berlusconi. Nel 92 già voleva scendere, lui voleva scendere, però in quel periodo c'erano i vecchi. Lui mi ha detto ci vorrebbe una bella cosa. A parlare Giuseppe Graviano, il boss delle stragi, e si riferisce a Silvio Berlusconi. È il 10 aprile 2016. Graviano, nell'ora d'aria del carcere di Ascoli Piceno, parla con il camorrista Umberto Adinolfi. Sono 5.000 le pagine di intercettazioni che i pubblici ministeri Nino Di Matteo, Roberto Tartaglia, Francesco Del Bene, Vittorio Teresi hanno depositato all'udienza del processo sulla cosiddetta trattativa cooperativa Stato-Mafia. Per la Procura di Palermo, Graviano sembra voler attribuire a Berlusconi il ruolo di mandante delle stragi del 1992-93. Ecco perché i verbali sono stati già trasmessi alle procure di Caltanissetta e Firenze, che si occupano delle indagini sulla stagione delle bombe mafiose. Ma di sicuro queste intercettazioni sono destinate ad aprire nuovi fronti di inchiesta. Graviano è stato intanto interrogato in carcere il 28 marzo. I PM gli hanno contestato alcuni passaggi delle intercettazioni, ma il boss si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto c'è già un'indagine bis sulla trattativa Stato-Mafia. Giuseppe Graviano è il primo indagato di una lista al momento segretissima. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. E in una nota l'avvocato difensore di Berlusconi Chedini, difensore e senatore di Forza Italia, ha replicato: sono state enucleate poche parole decontestualizzate che si riferirebbero a Berlusconi, è un'interpretazione, dice, destituita di ogni fondamento, e non avendo mai avuto alcun contatto il presidente Berlusconi con il signor Graviano. Ma in primo piano ovviamente per la politica ci sono le amministrative di domenica in poco più di 1000 comuni, e a dominare naturalmente anche lo stop all'intesa sulla legge elettorale. Matteo Renzi rilancia, anche se non è ottimista, su un possibile nuovo accordo sulla legge elettorale. C'è stato un fallimento impressionante della proposta condivisa dai principali partiti. Il segretario PD non chiude la porta, anche se attacca il Movimento 5 Stelle. I 5 Stelle in questa vicenda sono stati inaffidabili. I 5 Stelle sono stati inaffidabili cambiando dalla Commissione all'Aula, come già era accaduto sulle unioni civili, come già era accaduto su almeno un'altra dozzina di provvedimenti. I 5 Stelle sono inaffidabili per definizione. Gli risponde Luigi Di Maio: si è abusata abbastanza della pazienza degli italiani, meglio andare al voto con la legge esistente. Ma è anche all'interno della maggioranza che ci sono spaccature. Angelino Alfano esulta: abbiamo vinto, si è trattato di un clamoroso fallimento, dice il leader di AP, siamo in una fase di sostegno e collaborazione al governo Gentiloni, ma non ci sentiamo alleati del PD. Da Forza Italia per Silvio Berlusconi invece un incidente non può far saltare l'equilibrio. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sulla situazione politica, i giovani industriali riuniti in Liguria dicono no ad elezioni anticipate, ma se il governo rimane fermo, meglio votare. La politica è in crisi e lo sono anche i cittadini, perché il primo problema dell'Italia è proprio che ha paura. Il problema dell'Italia è che l'Italia ha paura e la paura si cura con il lavoro. Così, alleandosi anche con la New Economy, affrontano i giovani industriali, per voce del loro neopresidente Alessio Rossi, la mancanza di crescita e la crisi anche della politica. I giovani imprenditori guardano ai prossimi appuntamenti su legge di bilancio, che deve disinnescare le clausole di salvaguardia e rafforzare le riforme, e sulla legge elettorale. Le elezioni anticipate non servono a nessuno, ma se il governo deve passare il tempo a cercare la maggioranza in Parlamento invece che fare le riforme, allora meglio votare. Non c'è invece l'intesa sulla legge elettorale? Allora correggete a maggioranza il consultellum e andiamo a scadenza naturale della legislatura. E i giovani industriali aprono al dialogo anche con le forze popolari. Come ceto dirigente ad ogni livello dobbiamo ricercare un dialogo con chi ha un grande sostegno popolare. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore, Rapallo. E il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno, e oggi sono stati stanziati 2 miliardi contro la povertà. Il tema della povertà è una priorità del governo. A sottolinearlo è il premier Gentiloni dopo il primo via libera al decreto legislativo che introduce il reddito di inclusione. Prima dell'approvazione definitiva il provvedimento dovrà passare all'esame delle commissioni parlamentari competenti. Le risorse a disposizione sono di circa 2 miliardi di euro all'anno e a beneficiare della nuova misura saranno oltre 660.000 famiglie, fa sapere il ministro del Lavoro Poletti. La priorità va data ai nuclei con almeno un figlio minorenne, ai nuclei con un figlio con disabilità anche se maggiorenne, nuclei con una donna in stato di gravidanza, nuclei con una persona di 55 anni o più in condizione di disoccupazione. La soglia d'accesso sarà doppia, 6.000 euro di reddito ISEE e 3.000 euro di reddito equivalente, mentre l'ammontare della REI andrà da un minimo di 190 a un massimo di 485 euro, spiega ancora Poletti. Il sostegno economico sarà assegnato solo con l'adesione del capofamiglia a un progetto di inclusione sociale e lavorativa. Previsto infine anche un potenziamento dei centri per l'impiego con 600 nuove assunzioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Altro tema di giornata è la RAI, c'è la protesta grillina per la scelta di nominare Mario Orfeo nuovo direttore generale. Ha già partecipato al primo consiglio di amministrazione il nuovo direttore generale della RAI, Mario Orfeo. Il CDA lo ha nominato con 7 voti favorevoli, compreso quello della presidente Monica Maggioni, contrario solo Carlo Freccero. Freccero si era espresso contro la nomina, proponendosi lui stesso come DG e chiedendo un'audizione pubblica in vigilanza per verificare chi fosse più competente. Contestano i 5 Stelle. Prima della nomina, Roberto Fico, presidente della commissione vigilanza RAI, aveva parlato di voler mettere benzina sul fuoco. Io ho attaccato Orfeo molte volte e continuerò a farlo, scrive invece Alessandro Di Battista. Attaccherò sempre il suo modo di fare informazione, parziale, strumentale, cucita su misura sul PD e su Renzi. Oggi la sua fedeltà viene premiata. Marta Cagnola, Radio 24 e Sole 24 Ore. Una notizia dall'estero: il governo spagnolo del premier conservatore Rajoy ha nominato oggi di nuovo una donna a capo dei servizi segreti di Madrid. Si chiama Paz Esteban López, 59 anni. Subentra Beatriz Méndez de Vigo, che aveva preso la direzione del Centro Nazionale di Intelligence nel 2012. Laureata in filosofia, in lettere e filosofia, la López ha lavorato per 20 anni per l'intelligence militare. Adesso di nuovo in Italia con la cronaca: condanna all'ergastolo confermata in appello per Claudio Giardiello, l'imprenditore. Vi ricordate che il 9 giugno 2015 ha ucciso 3 persone nel Palazzo di Giustizia di Milano. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. E poi per lo sport, paura per Max Biaggi, il 6 volte campione del mondo di motociclismo, vittima poco dopo le 13 di oggi di un incidente mentre era in pista nel circuito Il Sagittario di Latina, caduto rovinosamente dalla sua moto, dal suo bolide. Il centauro romano hanno stato subito soccorso, trasportato con l'eliambulanza del 118 al San Camillo di Roma, a fratture multiple alle costole e dovrebbe guarire in 30 giorni. Poi ci ritorniamo a parlare di un campione che insomma ormai ultra quarantenne. Gay Pride, tutto pronto per il Roma Pride 2017, la sfilata dell'orgoglio della comunità LGBT che domani attraverserà la capitale. Attese 20.000 persone, l'inizio del corteo è previsto per le 16. Per chiudere, una notizia anche che riguarda lo spazio: anche gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale, LIS, potrebbero presto provare il piacere di essere risvegliati dal profumo del pane fresco. Sfornarlo direttamente a bordo è l'obiettivo del progetto Bake in Space, che mira a sviluppare un forno speciale ad un impasto ad hoc per produrre pagnotte senza briciole, che in assenza di gravità altrimenti potrebbero fluttuare, mettendo a rischio l'incolumità degli astronauti. Il kit per i primi panettieri dello spazio dovrebbe essere sperimentato sulla IS già nel 2018 durante Horizons, la missione della Agenzia Spaziale Europea. Se tutto andrà a buon fine, si allungherà quindi la lista dei cibi preparati in orbita. Nel menù dei freschi è già possibile trovare l'insalata coltivata a bordo e il caffè espresso preparato con una macchinetta made in Italy. Molto bene, visti questi progressi per quanto riguarda gli astronauti, possiamo brevemente fermarci, così aggiorniamo chi si sta muovendo, chi sta viaggiando. Vi ricordo per i vostri messaggi pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666. Per esempio Max Taxi, a proposito della legge elettorale, di cui parleremo tra poco, dice sulla vittoria di Alfano: me sa di sì, colui che regge il PD ma non è col PD, colui che con meno del 5% tiene in scacco sto cacchio di paese, dice, altro che nuova legge elettorale. E poi altri messaggi ne leggo dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. In 60 minuti con me Roberta Giordano, ogni sera le notizie più importanti dall'Italia e dall'estero, approfondimenti con gli ospiti. Adesso cominceremo con il primo ospite di questa sera. Vi ricordo sempre puntualmente: accendete alle 21 fino alle 22, in modo che a fine giornata conoscete le notizie più importanti e un giorno non potrete dire io non lo sapevo, a proposito appunto di una notizia in primo piano. Allora, mentre continuano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666, tra pochissimo vi ricordo quali sono i fatti principali. Intanto, sempre sulla politica, per i vostri messaggi, dice questo ascoltatore o ascoltatrice, non si firma, mettete un nome d'arte, dico sempre, Alfano, quando non volete mettere il vostro, Alfano, il ministro di tutto è un parlamentare immortale, o è il politico più abile o il più fortunato del mondo, mi consenta, ha avuto il maestro migliore, dice, ricordando evidentemente Berlusconi. Poi Questa è una sconfitta per tutti, il fatto di che si sia affossata la legge elettorale, dice un altro ascoltatore o ascoltatrice. Non ci sono vincenti, perché la legge elettorale è fatta innanzitutto per gli elettori, non per Alfano o cricche varie. Tra poco ci ritorniamo su questa vicenda senza fine. Intanto, se non avete acceso puntualmente, voi lo sapete che, insomma, se siete assenti, giustificati, io vi ricordo comunque i fatti principali. La fragile vittoria in Gran Bretagna di Theresa May al governo con gli unionisti avanti senza maggioranza assoluta, dice, ora la priorità è la Brexit e la sicurezza. E poi, per quanto riguarda la legge elettorale in Italia, tutti contro tutti, duello tra PD e Movimento 5 Stelle, Renzi non crede a un nuovo accordo, Pisapia chiede di fare le primarie per una coalizione di centrosinistra. Primo sì al reddito di inclusione per 660.000 famiglie dal Consiglio dei Ministri, è arrivato questo sì. Intanto Poletti annuncia 2 miliardi di stanziamenti l'anno. Il Presidente del Consiglio Gentiloni dice la povertà è prioritaria. E poi, per quanto riguarda la RAI, è stato nominato un nuovo direttore generale, Mario Orfeo. Per i 5 Stelle è un golpe. Poi parleremo anche di questo. Il boss che chiama in causa Berlusconi è Graviano, che dice mi chiese una cortesia, questo al processo Stato Mafia, il Cavaliere nel 94 ha tradito, dice Graviano. Avete sentito nel riassunto della giornata. E poi Trump al contrattacco sul Russiagate, Comey, cioè l'ex direttore dell'FBI, dice è una talpa e lo vuole denunciare per diffusione di notizie secretate. E dopodiché, paura in pista per Max Biaggi, l'ho sfangata anche questa volta, dice, fratture multiple, dovrebbe guarire in una trentina di giorni. E siamo, essendo venerdì, al bilancio politico della settimana, e indovinate un po' qual è il tema protagonista assoluto del dibattito politico italiano in questi giorni, qual è il supremo oggetto del contendere. Penso che abbiate indovinato, insomma, senza difficoltà si tratta della legge elettorale, visto che è una saga infinita che le telenovele interminabili gli fanno veramente un baffo. Sapete che ogni tot io faccio un po' riepilogo delle puntate precedenti, perché per esempio c'è un ascoltatore, se lo ritrovo, proprio poco fa, che scriveva mi sono perso, lo riconosco, non ci ho capito nulla di una cosa, ora sono certo, il voto settembre-ottobre significava far campagna elettorale in agosto. Comunque, appunto, anche per Danilo e gli altri ascoltatori riepilogo brevemente. Sapete che dopo infiniti travagli, tentennamenti, tira e molla, l'intervento della Corte Costituzionale, le sollecitazioni del Presidente della Repubblica, pareva che miracolosamente nei giorni scorsi i quattro maggiori partiti, PD, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega, avessero trovato un'intesa sul modello tedesco rivisitato per quanto riguarda la legge elettorale. L'entusiasmo per questo accordo era, diciamo, palpabile già il giorno in cui il testo è approdato alla Camera, visto che su 630 deputati erano presenti in 15. Ma vabbè, i più palesemente avversi però a questa legge elettorale sono stati subito Alfano, alleato del PD per il governo, che accusava Renzi di tradimento per essersi accordato con gli avversari e anche per avergli piazzato questa soglia di sbarramento al 5%. E poi l'altro, diciamo, che avversava particolarmente questa legge elettorale, Napolitano, ex presidente della Repubblica, che ha detto si tratta di un patto extracostituzionale tra quattro leader che si occupano solo delle loro convenienze. Dopodiché l'atmosfera d'intesa già era stata, diciamo, un po' compromessa dai primi 66 franchi tiratori. Poi Grillo, che aveva frenato a un certo punto dicendo che voleva risottoporre però il testo della legge elettorale al voto online dei suoi iscritti. Ieri poi l'epilogo drammatico, riassunto in questo vivace scambio tra Rosato del PD e Toninelli del Movimento 5 Stelle. Allora sentiamo prima Rosato e poi Toninelli. Presidente, quello che è accaduto è chiaro agli occhi di tutti. Abbiamo fatto un lavoro serio in queste settimane per provare a fare una legge elettorale che venisse condivisa da tutti, dai grandi gruppi parlamentari. Un lavoro molto difficile e complicato. Dopodiché ci siamo trovati di fronte a una richiesta che veniva dal Movimento 5 Stelle di intervenire su due punti, sulle preferenze e sul voto disgiunto. Oggi il Movimento 5 Stelle ha dimostrato cosa vale la loro parola. Nulla! Nulla! Non vale nulla! Ma voi pensavate che il Movimento 5 Stelle facesse così col dito e facesse l'opposto nel voto segreto? Noi siamo gente onesta! Ma voi siete ridicoli! Noi, Presidente, con i traditori, con i vigliacchi e con gli irresponsabili non avremo mai, e ripeto mai, nulla che spartire. Poi in aggiunta c'è stato ieri anche questo giallo del tabellone della Camera, che nonostante ci fosse il voto segreto si era illuminato palesando vari, insomma, franchi tiratori un po' di vari colori politici. Il patto quindi tra Movimento 5 Stelle, PD, Forza Italia e Lega è saltato su un emendamento della deputata di Forza Italia Biancofiore che riguardava il Trentino Alto Adige. Fiano, deputato del PD nonché relatore della legge, ha praticamente diciamo notificato la dipartita di questa legge elettorale. Vogliamo sentire? Io ho espresso parere contrario a questo emendamento nel comitato della Commissione Affari Costituzionali. I 5 Stelle, al mio parere contrario, non hanno posto nulla. Anzi, lo avevano prima ritirato l'emendamento e l'hanno ripresentato per l'Aula. Dunque, non esprimere un parere contrario al mio in Commissione e poi farci la sorpresa in Aula vuol dire tradire il patto politico che era stato sottoscritto. Noi non siamo disponibili a questo testo e dunque la legge a questo punto è morta, e però questa volta conosciamo i nomi degli assassini, che sono i 5 Stelle. L'avete sentito comunque all'inizio quello che da più parti viene considerato, insomma, vittorioso, quello che ne esce vincente da questa sconfitta, da questo affossamento della legge elettorale, Angelino Alfano. Siamo per andare avanti. Loro questa mattina hanno formalmente dichiarato che la legislatura finisce a scadenza costituzionale, perché non l'assegna nessuno la scadenza se non nella Costituzione, e dunque per noi il caso è chiuso. La nostra proposta è di non parlare più del tema delle elezioni anticipate. Quindi però Alfano, chiusa la faccenda. Grasso però, il Presidente del Senato, ieri quando Fiano ha detto, avete sentito, è morta la legge elettorale, basta, è sepolta, ha detto no, questo non mi pare un de profundis, il fatto che ritorni il testo, la legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali potrebbe significare invece la possibilità di una aggiuntiva riflessione. Quindi chiedo alla nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore, cara Barbara, ben ritrovata. Buonasera. Stanno dunque riflettendo PD e Movimento 5 Stelle, tra i quali pare che ci sia veramente un dialogo praticamente impossibile? Bah, no, secondo me non stanno riflettendo, penso che attendano l'esito del voto delle amministrative di domenica per darsi una regolata. E allora sentiamo un attimo Barbara, sentiamo Renzi che cosa ha detto oggi nella sua rassegna stampa su Facebook. Se ci sono le condizioni per fare tutti insieme una bella legge con Forza Italia, con 5 Stelle, se improvvisamente le persone tornano al buonsenso e alla ragionevolezza, lo vedremo. Permettetemi di non essere particolarmente ottimista su questo tema, però quello che è certo è che nei prossimi giorni, settimane e mesi, da parte mia c'è nostra, non soltanto mia, il desiderio profondo di occuparsi delle tre parole che abbiamo lanciato all'Assemblea Nazionale del PD, lavoro, casa, mamme. Io aggiungerei anche papà, perché sono mamme. Comunque, sentiamo invece per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, Roberto Fico. La colpa è chiaramente del PD, perché è il PD che ha votato il nostro emendamento, che è passato, oltretutto un emendamento ragionevole. Se il PD non permette ai suoi di votare ciò che vogliono in aula, non è colpa nostra. Noi ieri in aula abbiamo votato contro la sospensione dell'aula e contro il rinvio del provvedimento in commissione, quindi per noi si poteva andare avanti in modo tranquillo, anche perché l'emendamento non inficiava in alcun modo la struttura della legge elettorale, quindi è proprio una pazzia che il PD ha voluto fare per giochi interni. Allora, mentre Emiliana scrive che poi il discorso è semplice, il Movimento 5 Stelle dichiara di votare sì e vota sì, il PD dichiara di votare no e 80 di loro votano sì. Allora, Barbara, ieri avevi detto che un po' fanno il balletto il Movimento 5 Stelle, un po' ci sono tra i franchi tiratori, anche evidentemente dei deputati del PD, e un po', insomma, non si capisce quali sono effettivamente le convenienze. C'è qualcuno che dice non ci capisco più nulla. Barbara, aiutaci tu. Allora, la cosa è molto semplice. Il Movimento 5 Stelle aveva detto che questo emendamento, cioè c'era un patto, il patto era che i due punti cruciali di cui abbiamo parlato anche noi in questi giorni erano: uno, il voto disgiunto, l'altro le preferenze. Cioè il disgiunto, lo rispieghiamo, è quando l'elettore, la possibilità di votare il candidato del collegio uninominale e appartenente a una lista senza... e una lista in un'altra scheda, una lista di un altro schieramento. Allora, queste erano le due richieste del Movimento 5 Stelle. Su tutto il resto il Movimento 5 Stelle in commissione aveva o votato assieme al resto della maggioranza o aveva ritirato i propri emendamenti o si era astenuto. Cosa è successo? È successo che invece questo emendamento, presentato peraltro da una esponente di Forza Italia, è stato sostenuto dai 5 Stelle. Si dirà, era una cosa minore. Non era così minore, perché su questo emendamento c'era l'intesa anche con la Südtirol Volkspartei, cioè con le autonomie, che al Senato hanno diversi senatori e quindi sono decisivi per la tenuta della maggioranza di governo. Quindi non era una cosa, tant'è che hanno subito detto che sarebbero usciti dalla maggioranza. Quindi non era una cosa indifferente per quei partiti di maggioranza di governo, nel caso dei quattro, dell'intesa dei quattro, il PD. Ma in più era evidente che a quel punto, se c'era una posizione del genere, si sarebbe potuta ripetere, cioè nuove sorprese nei prossimi giorni sarebbero potute emergere, e quindi diciamo era evidente che l'intesa è saltata. Poi nel PD c'è stata una pattuglia anche significativa di franchi tiratori. Noi cronisti parlamentari ne abbiamo individuati diciamo una quarantina, cinquantina forse, più altri sparsi tra le altre forze politiche, che non sono neanche tanti, perché diciamo che per un gruppo che conta 280 persone un 15% di franchi tiratori insomma è abbastanza fisiologico, come dicevi. Fisiologico, sì, però certamente in una situazione del genere bisognava essere più attenti. Ma secondo me, è una mia opinione personale, a vincere è stato il partito del non voto. Cioè io credo che anche tra i grillini, i poltronieri, come dicevi ieri, certo, poltronisti, certo, come li vogliamo. Perché era evidente che questa legge avrebbe portato alle elezioni. Diciamolo francamente, il patto tra i quattro era un patto che aveva al centro la possibilità di tornare al voto. Lo volevano Renzi, lo voleva Salvini e lo voleva Grillo. L'unico a non volere questa ipotesi, non a non volerla, ma comunque proprio non era il suo obiettivo, era Berlusconi, che però in cambio dagli altri tre aveva ottenuto la legge elettorale per lui più congeniale, cioè un proporzionale con un bello sbarramento a 5 che impediva ai piccoli del centro di entrare in Parlamento, e quindi senza preferenze per Berlusconi era la legge ideale. Quindi ognuno aveva qualcosa in questo patto. Il patto si è rotto e adesso difficilmente, anzi io credo che sia veramente impossibile che si possano tornare a sedere attorno a un tavolo. Quindi vogliamo dire, Barbara, che il voto anticipato è escluso a questo punto? Allora, basta. Il voto anticipato è escluso a meno che, perché poi qui ieri non era così previsto l'incidente sull'emendamento sul Trentino Alto Adige, tutti attendevano quello sulle preferenze piuttosto che sul voto disgiunto. Quindi non è da escludere che nel corso delle prossime settimane magari andiamo incontro a un incidente imprevisto che faccia andare sotto la maggioranza su un provvedimento significativo. A quel punto la partita si riapre tutta. Però se questo incidente non c'è, perché parlo di poche settimane, non parlo di mesi? Perché la cosa importante è arrivare a luglio. Per i poltronisti, diciamo così, per usare il sostantivo da te utilizzato. Basta il primo luglio, basta? No, non basta il primo luglio, basta arrivare a metà luglio per chiudere l'ipotesi di una possibilità di voto anticipato elettorale in autunno. E se non si vota a settembre, ottobre, non si vota più fino a febbraio, questo è evidente. Quindi la necessità è arrivare a luglio. E poi io sono convinta che anche, come dire, questo atteggiamento responsabile da parte di forze della maggioranza, per cui tutti adesso a lavorare per il governo, da metà luglio vedrete che cambieranno, perché entreranno in campagna elettorale anche se le elezioni arriveranno solo a febbraio. Barbara, senti, e Pisapia, Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, che ha creato il suo movimento, ha lanciato una sfida a Renzi oggi, no? Ha detto se Renzi vuole una coalizione di centrosinistra faccia le primarie e poi vediamo chi vince. Beh, è una bella sfida, ed è la sfida che Pisapia del resto ha vinto a Milano, perché ricordo che quando si candidò alle primarie del centro-sinistra non era lui il candidato, lui era un esterno, non era il candidato del PD, e si impose a Milano, e quindi probabilmente, non so se lui personalmente vuole ritentare, però è evidente che dare il via libera a primarie di coalizione significa accettare di rientrare in una idea di alleanza di centrosinistra. Renzi per ora apre, però anche Renzi abbiamo visto che di ripensamenti ne ha avuti tanti in questi mesi, quindi non direi che siccome oggi si è mostrato, come dire, disponibile ad un'alleanza, questa poi non ci ripensi, essere... ecco, vabbè, questo abbiamo capito. Uno sport nazionale, grazie cara Barbara Fiammeri, buon fine settimana. Grazie a voi, buonasera. Ciao cara Barbara. E poi c'è chi difende Alfano, Paolo da Belluno dice dell'incredibile che il popolino italiano si scagli contro Alfano, che fra i pochi ad avere sempre palesato il suo pensiero e non contro la banda, dice Altroni, pentastellati e non... che come sempre si atteggiano i primi della classe, professorini, eccetera, eccetera. Bene, continuate con i vostri messaggi. Pagina Facebook di Effetto Note, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è il 349-238-6666. Ci sentiamo a momenti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo allora con le notizie, con gli approfondimenti. Avete sentito all'inizio il riassunto della giornata, quindi accendete sempre puntualmente alle 21, anche se ogni tanto vi ricordo i fatti principali. Abbiamo parlato lungamente di politica italiana con questa legge elettorale, insomma difficilmente riprenderà quota, e con le varie previsioni che abbiamo fatto con la nostra commentatrice Barbara Fiammeri. Ancora sulla politica, per esempio, Fabio dice: non credo all'ipotesi di rinviare le elezioni per il vitalizio, molti deputati sono giovani e lo avrebbero tra 20-30 anni, vi pare possibile? Dice Fabio, che evidentemente non ha nessuna malizia, ha fiducia nella politica, nei politici italiani, e giustamente se la vuole avere è giusto così. Poi, a proposito della richiesta che faceva Pisapia, di cui abbiamo parlato poco fa, a Renzi, di fare delle primarie per una coalizione del centrosinistra, risponde adesso con una dichiarazione Francesco Bonifazi, che è tesoriere del PD, e dice: facciamo le primarie e vediamo chi vince. Bene, chi perde che fa, caro Pisapia? Resta o scappa? Dice. E poi, tra l'altro, aggiornamenti invece per quanto riguarda Trump e Russiagate. Trump, si dice presidente americano, pronto al 100% a testimoniare sotto giuramento. Ma noi adesso dalla politica italiana e anche brevemente da quella americana ci spostiamo su quella britannica, ma prima di tutto vi ricordo tutti i fatti principali. Dopo elezioni in Gran Bretagna, la prima ministra May chiede scusa per il risultato e si allea con gli unionisti nordirlandesi per governare il Regno Unito. Dice: ha bisogno di certezza e sicurezza e di procedere con la Brexit. Ne parleremo tra pochissimo. La presunta trattativa Stato-mafia, con il boss Graviano intercettato in cella, che dice: Berlusca mi ha chiesto questa cortesia. E mentre l'avvocato Ghedini dice: mai alcun contatto diretto o indiretto col signor Graviano. Legge elettorale, ne abbiamo appena parlato con Renzi, che commenta: non sono ottimista su una nuova intesa, ma sono aperto. Alfano esulta, abbiamo vinto. Scambio di accuse tra PD e Movimento 5 Stelle. E Pisapia, che chiede a Renzi primarie per il centrosinistra. Povertà, con il primo sì del Consiglio dei Ministri al decreto sul reddito di inclusione, e Poletti che annuncia stanziati 2 miliardi l'anno per 660.000 famiglie. Rai, Mario Orfeo è il nuovo direttore generale. Motociclismo, incidente in pista per Max Biaggi, fratture multiple, guarirà in 30 giorni. E abbiamo qui il nostro Sergio Nava, caro Sergio. Ciao Roberta. Con la sua R sempre arrotatissima, immagino. Parliamo di elezioni britanniche anticipate in Gran Bretagna, che non sono andate come immaginava la prima ministra Theresa May. Proprio lei, divenuta ministra dopo le dimissioni di David Cameron, che era praticamente stato affossato dalla sconfitta al referendum sulla Brexit, nel senso l'aveva voluto lui pensando di rafforzare la sua posizione, invece poi gli inglesi hanno scelto in maggioranza per l'uscita dall'Unione Europea. Quindi lei era diventata prima ministra dopo le sue dimissioni, e adesso Sergio, con queste elezioni anticipate che lei stessa aveva chiesto, voleva un'investitura ancora più forte, no, per procedere nell'uscita dall'Unione Europea, e invece è andata diversamente, perché ha perso il partito conservatore della May, ha perso la maggioranza assoluta, c'è stata una rimonta del contendente Jeremy Corbyn. Quindi, al di là dell'analisi sul voto con i millennials, cioè i giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno ribaltato il risultato previsto votando in massa, votando per Corbyn. Al di là del voto delle donne che hanno permesso per la prima volta far andare al Parlamento di Westminster oltre 200 donne, il punto è quello della Brexit, per l'appunto, no? Come dice Theresa May, che questa è una priorità del suo governo. Beh, sì, diciamo innanzitutto che, come anticipavi tu, Roberta, la May si è candidata per avere l'investitura, l'ha avuta, ma non nei termini in cui sperava. Anche perché, facciamo un passo indietro, quando ha annunciato le elezioni questa primavera, a sorpresa, pare non informando neppure alcuni membri del suo governo, Theresa May aveva 20 punti di vantaggio, si sono ridotti praticamente a 3 sul calcolo percentuale. Ma secondo te gli attentati che sono stati a Manchester e a Londra hanno inciso in qualche modo? Possono aver inciso, ma non così tanto, nel senso che la rimonta del Labour era già in corso. Quello che ha inciso soprattutto è stato, da un lato, l'incapacità conclamata di Theresa May di fare una campagna elettorale ben fatta, perché anche per limiti suoi non è molto empatica, o non lo è praticamente per nulla, non ha partecipato ai dibattiti con gli altri candidati, mandando altri ministri a rappresentarla. E poi c'è anche la questione austerità, nel senso che i tagli fatti anche sull'onda della crisi finanziaria al governo conservatore stanno presentando il conto, i nodi stanno venendo al pettine, la gente è anche stanca di vedere i servizi sociali, i servizi pubblici tagliati. Ci sono poi stati vari casi anche relativi agli anziani, la cosiddetta dementia tax, insomma una serie di concause, e anche la capacità di Corbyn alla fine, lo abbiamo visto nella leadership Labour e lo abbiamo rivisto adesso nelle elezioni, di toccare le corde giuste della gente e riuscire ad arrivare a far passare il suo messaggio. Non è stato un grande leader dell'opposizione in questi 2 anni, però poi in campagna elettorale ha dato il meglio. Torniamo alla Brexit, però. Come dire, guardando da Bruxelles la questione, due possiamo dire i punti principali. Il primo è che oggettivamente l'avversario in questo negoziato Brexit è indebolito, perché la May voleva un mandato forte, voleva poter avere le mani libere per trattare le sue condizioni a Bruxelles, ora si trova in un governo di fatto più fragile, no? Più fragile, bisogna vedere se di coalizione oppure se sarà un governo di minoranza sostenuto con un appoggio esterno della DUP, cioè degli unionisti nordirlandesi. E quindi di fatto non dimentichiamo anche che Nord Irlanda entra molto nella questione Brexit, perché c'è anche la speranza del Sinn Féin e di altre componenti della società irlandese di avere una riunificazione dell'isola. C'è la questione del confine terrestre tra Nord Irlanda e Repubblica d'Irlanda, e lì l'alleanza col DUP, si vedrà come, se le posizioni coincideranno oppure divergeranno. Questo quindi da un lato, si indebolisce l'avversario, si indebolisce l'interlocutore. L'Europa invece, paradossalmente, però, volta in posizione di forza, perché ha un mandato negoziale compatto stavolta, approvato all'unanimità. Dall'altro però anche la preoccupazione, non dimentichiamoci che i 2 anni per il divorzio sono scattati, sono partiti alla fine di marzo, quindi entro marzo 2019 la Gran Bretagna, a meno che non decida di fare un passo indietro, ma al momento non è il caso, dovrà uscire dall'Unione Europea. È la prima volta che si avvia una simile trattativa. I negoziati non sono neanche partiti, abbiamo già perso 3 mesi, ne mancano 21, non più 24, e non sappiamo neppure quando partiranno. Dovevano partire a fine maggio, poi alla fine, causa elezioni, si è detto facciamoli partire dopo le elezioni inglesi, allora si era individuato intorno al 19 giugno, ora non si capisce più nulla. Infatti Bruxelles da un lato, sotto sotto, sogghigna, dice ti sei indebolita, te la sei cercata. Dall'altro però dice il rischio è di una totale incertezza, di un totale caos, e di un non accordo che alla fine sarebbe devastante nei rapporti anche, Gran Bretagna, certo, anche per l'Unione Europea. Quindi un voto che rischia di complicare ulteriormente la Brexit. Grazie Sergio Nava. Grazie a te. Ciao. Molto chiaro. Ciao Sergio, sentiamo quali sono gli aggiornamenti per chi viaggia e poi torniamo insieme. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre insieme, Roberto Giordano con voi, dice Pietro, scrive al 349-238-6666, numero per messaggi e WhatsApp, potete anche scrivere i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, dice molto d'accordo con la Fiammeri, abbiamo parlato di politica italiana, di legge elettorale, prima dice sull'ipotesi della colla sulla Carega, credo che si dica Cadrega, insomma dipende dalle regioni, tra parentesi dice anche dei grillini, cioè dei, in generale dice Pietro, dei poltronisti, quelli che hanno voluto affossare la legge elettorale per non andare a voto anticipato e rischiare di non essere rieletti. Ma adesso ci occupiamo di altro, anche se con la politica è strettamente intrecciata, che è la RAI. Vi ricordo molto molto velocemente, in pochi secondi, le notizie più importanti. Ne abbiamo appena parlato della fragile vittoria di Theresa May in Gran Bretagna, avanti senza maggioranza assoluta, ora dice la priorità sono Brexit e sicurezza, e poi tutti contro tutti sulla legge elettorale, ne abbiamo parlato ampiamente, duello tra PD e Movimento 5 Stelle, Pisapia che chiede a Renzi le primarie per una coalizione di centrosinistra, poi il primo sì del Consiglio dei Ministri al reddito di inclusione per 660.000 famiglie, quindi contro la povertà, e poi parliamo adesso di Rai. Ne parliamo con Andrea Biondi del Sole 24 Ore. Caro Andrea, buonasera. Buonasera a voi. Allora, il CDA dell'azienda ha nominato il nuovo direttore generale, che è Mario Orfeo, dopo le dimissioni di Campo Dall'Orto, no? 7 i voti favorevoli, compreso quello della presidente della RAI, Monica Maggioni, contrario soltanto Freccero. Plaudono, sono contenti, diciamo, il PD e Forza Italia, mentre il Movimento 5 Stelle parla di golpe renziano. Sì, in effetti, allora, questa nomina sconta tutto le scorie del clima politico, insomma, che si è respirato in questi giorni. Teniamo conto che la nomina del DG arriva proprio dopo lo strappo sulla legge elettorale che c'è stato ieri alla Camera, insomma, in cui è venuto meno il patto a quattro fra PD, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Lega. Cosa c'entra la legge elettorale con il rinnovo della direzione generale della RAI? In effetti si è visto che non dovrebbero centrare, ma si è visto che sono strettamente collegati, perché alla fine, paradossalmente, forse proprio la rottura di questo patto ha fatto venir meno tutte le cautele del PD sulla nomina del direttore generale della RAI, e quindi la nomina è stata fatta con un minimo di cautela in meno rispetto alle reazioni di quelli che dovevano essere gli alleati in questa battaglia per la legge elettorale, che poi alla fine non si sono rivelati alleati, o meglio, le strade si sono divise. Andrea, riesci a dirci proprio in un minuto un po' un ritratto, proprio un minuto? Un ritratto di Orfeo. Orfeo si parla di lui come di una persona estremamente competente, di un grandissimo lavoratore. Ha un'esperienza nella carta stampata, è stato giornalista a Repubblica, direttore del Mattino, direttore del Messaggero ed è stato anche direttore del TG2 e del TG1. Al TG1 è da dicembre 2015. È una persona molto gradita al PD, ma ripeto, è una persona che passa per essere un grande lavoratore e un grandissimo professionista. La RAI sicuramente si dota di un professionista di grandissima levatura per questo compito. Adesso ci sarà da vedere chi dovrà sostituirlo alla direzione del TG1. Grazie Andrea Biondi del Sole 24 Ore. Ciao Andrea. A voi. Grazie, ciao. Buon lavoro. Ora Giovanni Capuano ci aggiorna su Max Biaggi, abbiamo visto che però per fortuna anche questa volta l'ha sfangata, come ha detto al padre preoccupato, no? Insomma, un po' di fratture, però in 30 giorni dovrebbe guarire. Sì, l'ha sfangata, ma abbiamo avuto tutti davvero paura oggi pomeriggio quando è arrivata la notizia di questo incidente sul circuito del Sagittario in provincia di Latina, dove stava facendo le prove per la supermotarda, perché Max Biaggi si è ritirato dal motociclismo che conta, ma come tutti gli appassionati di moto non ha mai smesso di correre e di andare in motocicletta. Allora, partiamo dalle buone notizie. La buona notizia è che il bollettino delle 19 dell'ospedale San Camillo di Roma, dove è stato ricoverato d'urgenza oggi intorno alle 14, ha escluso qualunque tipo di lesione midollare, che era la grande paura vista la caduta. Però è tutto escluso, a questo punto ha completato tutto il ciclo degli esami strumentali e quindi insomma la lesione è stata esclusa. Ci sono tante fratture alle costole che sono molto dolorose, che impongono questa notte il ricovero nel reparto di rianimazione, perché deve rimanere sotto stretta osservazione e quindi la prognosi è ancora riservata. Però il pericolo più grave è stato scongiurato. Domani alle 12 ci sarà un nuovo bollettino. I medici sono molto fiduciosi, lo hanno detto chiaramente, hanno detto che c'è stato un rischio ma che è stato scongiurato, e quindi diciamo entro una trentina di giorni potrebbe tornare in moto. Suo padre è quello che ha raccolto questa confidenza, cioè l'abbiamo spangata, ha anche detto che da 25 anni ha paura quando lo vede andare in moto e sarebbe ora di smetterla con le corse. Forse, visto che comincia ad avere la sua età, non che sia vecchio, ma può dedicarsi ad altro. Grazie Giovanni Capuano. Grazie, poi ognuno a te, Roberta. Vedrà le proprie passioni. Abbiamo il nostro Corazzon, Paolo Corazzon di Trebi Meteo, che ci parla di un'ondata africana, caro Paolo. Ma sì, io sono disperato, però è così in effetti. Buonasera a tutti. Freddo. Ciao Paolo. Certo, arriva l'alta pressione, già in queste ore è in atto, alta pressione che garantirà un weekend splendido, per carità, però temperature in progressivo aumento, il nord delle regioni tirreniche, le zone più bollenti, domani 31-32 gradi all'ombra, domenica 33-34 e lunedì 35-36, guadagniamo 2 gradi al giorno, aumentano anche le temperature notturne, quindi chi soffre il caldo si mette il cuore in pace, ci sarà da soffrire. De gustibus, perché qualcuno accusa, certo. Volete sempre il caldo. A me piace il caldo, a Corazzon piace il freddo, ognuno piace quello che piace, tanto il meteo non si può comandare, giusto? Brava, molto bene, si può solo prevedere. Grazie Paolo Corazzon di Trevi Meteo, buon tempo a te comunque buon sia. Buon tempo a tutti. Ciao Paolo, noi ci risentiamo alle 22.